Come probabilmente avrete capito, domenica scorsa, costretto da improrogabili impegni, non ero presente in studio e di fatto ho dovuto affidare alle cure di Felice Cristiano un intervento preregistrato, male mi dicono, non ho avuto quindi modo di farvi partecipi a botta calda di quanto pensavo della soluzione del senatore Andreotti. Non nego che la cosa un po' mi sia dispiaciuta, ma forse è stato meglio così. La forzata pausa di riflessione, come si diceva una volta, mi permette se non altro di evitare le banalità che in questa settimana commentatori ben più importanti di me e protagonisti assortiti di quello che evidentemente non sarà il processo del secolo non ci hanno negato. Che ammetterete. Ammetterete che fa una certa impressione leggere che gli inquirenti della Procura di Palermo hanno solennemente dichiarato di aver fatto soltanto il loro dovere, come se potessero ammettere di aver fatto qualcosa d'altro. O apprendere che il ministro di Grazia e Giustizia si è impegnato a difendere sempre e comunque l'indipendenza dei magistrati. E sarebbe stato curioso se si fosse impegnato a fare il contrario. E che il Presidente della Repubblica, sentite un po', ha invitato a rispettare la magistratura. È abbastanza noto. È abbastanza noto che quando una proposizione è per così dire obbligatoria, nel senso che non è pensabile che chi l'afferma possa sostenere il contrario, tanto vale che l'affermatore, quale che sia la sua posizione pubblica, tenga la bocca ben chiusa. Ma visto che l'ovvio e il banale non sempre coincidono, diremmo che tante banalità hanno avuto in parte l'effetto di far passare in secondo piano un'ovvietà ben nota a tutti i cultori delle storie di Perry Mason, in versione tanto letteraria quanto televisiva, quella per cui in qualsiasi processo serio la vittoria di una delle due parti significa la sconfitta dell'altra. Anche se in Italia, diversamente che nella patria dell'avvocato del diavolo, l'accusa non è mai esattamente sullo stesso piano della difesa, accusa e difesa restano comunque in contraddizione tra loro e la ragione dell'una significa il torto dell'altra. Tertium, in questo caso più che mai, non datur. E visto che la soluzione di Andreotti, della quale personalmente mi rallegro perché credo sia giusto rallegrarsi di ogni soluzione, ha avuto comunque un certo numero di conseguenze negative, come un'estensione indebita a livello politico generale, con la conseguente riabilitazione di forze politiche le cui nefandezze non vanno dimenticate, di una classe politica ignobile, compresi quei suoi membri che dai tribunali non sono stati assolti ma condannati, almeno due volte, mi sembra abbastanza corretto attribuire questi sgradevoli esiti proprio al torto di chi questo processo ha voluto, gestito e perso. In altre parole, se dobbiamo credere, come ci chiedono Ciampi, Di Liberto e simili, all'indipendenza della magistratura e rispettare le sue sentenze, dobbiamo anche concludere che la riabilitazione della Democrazia Cristiana e del craxismo è una tragica conseguenza delle iniziative degli inquirenti di Palermo. In fondo, che il processo ad Andreotti si fondasse su ben poco, in pratica sulle dichiarazioni dei soliti pentiti e stop, e che i suoi esiti non avrebbero potuto portare ad altro che a un tentativo di rilegittimazione democristiana, non era tanto difficile da prevedere. Persino io, che in fatto di processi non ne azzecco mai una, l'avevo scritto in tempi e sede non sospetti, sulla rivista anarchica del novembre del 95, figuratevi. Sicché può valere davvero la pena di chiedersi perché mai Caselli e i suoi collaboratori si siano accinti con tanto poco in mano un'impresa così disastrosa. D'accordo, avevano un forte senso del dovere e oltre che una certa tendenza al protagonismo, ma il senso del dovere non ha mai comportato l'obbligo dell'autolesionismo. Non presumerò di rispondere io alla domanda. Personalmente ho solo un sospetto, quello che gli inquirenti di Palermo abbiano fatto un po' troppo conto degli scarsi elementi che avevano in mano perché elementi ancora più scarsi si erano rivelati in passato perfettamente funzionali ai fini che si prefiggevano, che in altre parole abbiano peccato di eccesso di sicurezza. E visto che ricorrendo sistematicamente alle delazioni pilotate dei pentiti e non ad altro avevano colto nella loro carriera tanti fulgoranti successi, mandando in galera una quantità di persone, e non soltanto mafiosi, perché il pentitismo non l'hanno inventato contro la mafia ma contro la devianza politica, e si erano convinti di poter far condannare Andreotti con un paio di pentiti e basta. non rendendosi conto che una cosa è incastrare qualche presunto terrorista o togliere di mezzo qualche delinquente riconosciuto, e un'altra è mandare a Lucciardone un uomo di potere al centro di una rete fittissima di rapporti politici ad alto livello, che per di più ha sempre goduto dell'amicizia del Papa, dell'appoggio unanime della Chiesa, che nei lunghi mesi del processo non ha mai smesso di far parte della maggioranza di governo. Tutti sono uguali di fronte alla legge, ma qualcuno si sa è sempre più uguale degli altri. Contro gli sconfitti si può calcare un po' con la mano, anche se non si dovrebbe, ma evidentemente Andreotti era meno sconfitto di quanto si pensasse. Con che termini poi si possa definire questa tipica forma di megalomania egoriferita è cosa che conta assai meno. Chiamatela arroganza se volete, o senso del dovere se preferite, i risultati tanto sono gli stessi. In ogni caso vedrete che al prossimo processo basato su un pentito e rivolto contro qualcuno che non sia Andreotti, non so, il processo a Sofri per esempio, le cose torneranno al loro posto con generale soddisfazione di tutti i giustizialisti di lungo corso, tranne forse un paio di colleghi della nostra radio, ma queste sono contraddizioni loro. Certo, se invece di blaterare tanto qualcuno tra i nostri beniamati governanti si rendesse conto che ora di occuparsi seriamente del riequilibrio del processo penale sarebbe una gran bella cosa, ma non stiamo a sperarci.